9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. Oggi le pillole le faccio in brevissimo subito perché abbiamo una puntata con ospiti ai quali voglio subito poi chiedere di intervenire sul tema del giorno. Il tema del giorno lo sapete, è l'ennesima versione del piano industriale Fiat, quella annunciata da Sergio Marchionne in un'intervista al Corriere della Sera la settimana scorsa a Raffaella Polato. Prima fatemi dire solo alcune cose al volo, quindi invece di gridarvi le pillole come sempre infrassegnate dalla musica di Iannacci, tre cose rapide. Non mi piace molto, perdonatemi, e credo che non faccia bene alla magistratura, alla credibilità della sua posizione, il fatto che Antonio Ingroia all'ultimo giorno adesso faccia capire che si candida alle politiche. Siamo alle solite, credo che nessuno tocca il suo diritto di cittadino, al quale fa appello dicendo ma perché no, però visto che l'aveva escluso ci risiamo a lanciare poi la polemica di come si utilizzano le toghe per poi fare politica immediatamente dopo. Non mi piace dall'altra parte Antonio Di Pietro che prima annuncia in un'intervista al Fatto che non gli è stata estorta la chiusura del suo Italia dei Valori e poi ieri dice che è una bufala totalmente inventata, erano le sue parole virgolettate. Evidentemente in 24 ore ha ripreso fiducia sul controllo del suo Italia dei Valori e ha cambiato idea. Non mi piace la reazione dei parlamentari alle linee finalmente rese note dal governo, cioè il famoso pugno duro nei confronti di coloro che sono stati condannati, che hanno condanne per almeno 2 anni, e le reazioni di parlamentari come Dell'Utri e così via che dicono ma che è un mio diritto, non mi toccherà, mi ricandiderò comunque, queste danno l'idea di quanto manchi la percezione anche solo elementare di come gli italiani non ne possano più esattamente di questi atteggiamenti. Del resto darei il premio, per così dire, incredibile del giorno al giornale che fa prima pagina con una fotonotizia, titola tutta pagina Silvio, il coraggio di chiedere scusa, e insomma va bene come battuta, ma se gli è uscita un anno di distanza dalla rovinosa caduta del suo governo per mancanza assoluta di credibilità, l'ha detto a mezza bocca dopo aver detto 45.000 cose in senso opposto fino a poche ore prima, e chissà che non ci ripensi per l'ennesima volta. Ecco, 4 esempi di come poi non ci si debba meravigliare se l'Italia continua a premiare la pura protesta. Ma andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno, ve l'ho detto, è quello preannunciato con l'intervista a Raffaella Polato di Sergio Marchionne, un'intervista che Andrea Malan sul Sole 24 Ore l'indomani disse, commentò così, testualmente vi leggo prima di presentarvi gli ospiti: in 8 anni di gestione Marchionne al Lingotto Fiat ha presentato 8 piani di prodotto, di investimento e o finanziari, quasi sempre in maniera dettagliata, spesso estremamente anzi dettagliata. Ci fu Balocco nel 2004, Marchionne è arrivato in Fiat da meno di 2 mesi, poi venne il Lingotto 1 2006, il Lingotto 2 2010 e la presentazione di 2 giorni di qualche giorno fa agli analisti, quindi questi sono già 4, il tutto poi inframmezzato da incontri formali con governi e organizzazioni sindacali, uno nel 2005, uno nel 2007, addirittura 2 nel 2009, quindi se fate la somma sono 8 diverse versioni dei piani. E commentava Malan, fin qui Fiat Marchionne quasi sempre hanno centrato i target finanziari, anche se raramente investito quanto promesso, quasi mai rispettato i piani prodotti. Quello mostrato al governo nel 2007 a Roma conteneva per il 2008, 2010, 17 modelli nuovi, di cui, complice la crisi, 7 sono stati poi cancellati. Ve lo ricordo, l'intervista, fine della citazione di Mana, l'intervista di Marchionne a Raffaella Palato al Corriere della Sera, in sintesi cosa dice? Dice nessuna chiusura in Italia, quindi smentendo ciò che lo stesso Marchionne aveva detto un po' di mesi prima al Corriere della Sera, sempre aveva parlato della inevitabile e dolorosa scelta di Sofì, addirittura aveva usato questa immagine per dire che sarebbe stato costretto a chiudere 2 o 3 stabilimenti in Italia, si trattava di scegliere quale, no? Però adesso invece nessuna chiusura, portare la concorrenza direttamente nei segmenti premium ai tedeschi che sono leader, e dai segmenti premium, non avendo mai saltato un ciclo di reinvestimento, sono andati a fare concorrenza a chi fa mass market nei bassi segmenti del mercato, e al contrario Marchionne dice adesso con Maserati e con Alfa Romeo faremo questo. E dopodiché, terza cosa, nuovo impegno, ovviamente con una riallocazione di modelli per gli stabilimenti italiani rispetto a quello che aveva detto precedentemente, sempre con l'idea che poi si esporta anche quello che si fa qui, visto che per anni il mercato italiano sarà così. Allora, a questa vicenda, a cui poi si aggiunge la coda che però riguarda la relazione industriale dei 19 reintegrati dal giudice a Pomigliano con decisione conseguente della Fiat di per reintegrarli, allontanare però dal lavoro 19 altri che erano stati invece assunti, polemica che va avanti sui giornali perché, come avete letto in questi giorni, poi è intervenuto anche il segretario della CGIL Camusso, dopo che Fornero e Passera del governo hanno detto non ci piace questa cosa. La segretaria della CGIL ieri ha chiesto uno stop per interpretare le regole e tornare a quelle dell'accordo interconfederale del giugno 2011, oggi c'è una risposta di Raffaele Bonanni sui giornali non favorevole. Ma teniamo separate le due cose, piano industriale, la vicenda dei 19, i nostri ospiti. Abbiamo con noi innanzitutto Riccardo Ruggeri, ex top manager Fiat, uno che in Fiat è entrato come operaio e poi ci ha portato New Holland ed è nel comitato strategico della Fiat, e che torna più volte ad analizzare come investitore, dice sempre lui, in questi anni ciò che dice e ciò che fa Marchionne. Grazie a te Riccardo Ruggeri. Grazie. E poi con noi Massimo Mucchetti del giornale del Corriere della Sera, esattamente il collega che molte volte è tornato ad analizzare il tema della credibilità o meno delle diverse versioni dei piani Fiat, era colui al quale Sergio Marchionne aveva affidato esattamente la frase sulla scelta dei servizi. Buongiorno Massimo Mucchetti. Buongiorno. Allora, cominciamo dal piano industriale. Riccardo Ruggeri ha detto, mi ha spiazzato per l'ennesima volta Marchionne, mi aspettavo che eseguisse quello che aveva detto a Massimo Mucchetti, e invece no. Ruggeri. Sì, è proprio così. Io sono rimasto veramente questa mossa di questo nuovo piano, vorrei precisare, poi ne parleremo dopo, per usare un linguaggio che io uso spesso, una cosa sono i piani di ristrutturazione, una cosa sono i piani di riposizionamento strategico, semmai dopo ci ritorniamo. Questo piano di riposizionamento strategico, il primo degli 8 di cui tu hai parlato. Ripeto, questo mi ha completamente spiazzato perché ero rimasto legato, dopo, diciamolo così, sussurriamolo, il flop di Fabbrica Italia, che lui seguisse la via maestra che lui stesso aveva indicato nell'intervista che io chiamerei manifesto data 8 mesi fa a Massimo Mucchetti, e sulla quale gli investitori, il governo, l'opinione pubblica e sotto sotto anche i sindacati, se Airodo me lo permette io direi anche la FIOM, si erano resi conto che la capacità produttiva italiana doveva essere drasticamente ridotta. Credo che su questo ci fosse silenziosamente un accordo. E poi è nata poi la furbata di ristrutturare Fiat Auto con i quattrini dei contribuenti europei, ma questa non l'ho mai creduto, infatti i tedeschi l'hanno soffocata nella culla. Ero convinto che il nuovo piano Fiat fosse un piano di ristrutturazione classico, avrebbe previsto una riduzione, ottimizzazione della produzione in Italia, rimanendo coerente a quello che era il suo non solo modello di business, ma modello di posizionamento strategico, e cioè le auto di massa. Poi ero convinto, come Pedro avrebbe dichiarato, di chiudere gli stabilimenti in modo, perché non ce n'è neppure bisogno di chiuderli, tecnicamente si può anche spegnerli con quella che io chiamo un'eutanasia dolce, che poi si appelli ad un mercato debole, una condizione ottimale. Non aveva bisogno di parlare degli esuberi, perché se ne sarebbe parlato dopo le elezioni, nell'estate, quando sarebbero andate in scadenza le varie casse integrazioni, e dove invece il problema si sarebbe posto in modo drammatico fra mobilità e cassa in deroga, che vuol dire soldi a carico dello Stato. E invece no, lui ha presentato questo piano di riposizionamento strategico, e che soprattutto ha rinforzato, perché secondo me è stato molto rinforzato dall'intervista che ha dato a Raffaella Polato sul Corriere. Salta un passaggio che io ritengo fondamentale, ma questo può essere solo per quelli di tempo, che interverrà credo nei prossimi giorni, quella che io chiamo l'execution, cioè come, quando, con quanti e quali quattrini e con quali talenti tecnici realizzarlo. Ecco, io mi fermerei qui, anche se aggiungerei che sono molto colpito, come te Oscar, dal guanto di sfida ai tedeschi, non sulla Polo, sulla Skoda, ma sul segmento premium. Nessuno aveva mai osato, Toyota, a fare una cosa simile. Ecco, naturalmente, Riccardo, abbiamo l'obbligo di dire ai nostri ascoltatori, almeno io penso che lo si debba avere, che per il segmento premium è quello che in particolare implica investimenti di anni e anni di tale intensità che, d'accordo, nessuno discute, Maserati, per carità di Dio, in Alfa Romeo questa capacità o c'è qualche cosa che ignoriamo oppure... Su questo, ecco, infatti, ecco. Quando si parla di piano di riposizionamento strategico significa che stiamo mutando la natura dell'azienda, perché tu devi, penso, avere già, e sono convinto che li abbia, nei cassetti i progetti esecutivi dei nuovi modelli. Ammesso e non concesso, come diceva Totò. Sì. I quattrini, perché ci vogliono tanti quattrini, ci vogliono i talenti tecnici e soprattutto ci vogliono le reti di vendita, okay. Una cosa è vendere, quindi fermiamoci qua, nel senso una che... cosa è venderne 100.000, esatto, cioè, diciamo che c'è un punto interrogativo su questo che potrebbe essere l'ennesimo riposizionamento emotivo, per così dire, uso un aggettivo che ho letto che ha usato qualcuno, nel mentre il vero problema che emergeva da questa presentazione, come moltissimi hanno studiato, è stato quello che intanto Fiat in Italia brucia cassa al ritmo di 1,2-1,3 miliardi di euro a trimestre. Allora, si è aggiunto nel frattempo con noi, si è aggiunto a noi Giorgio Airaudo, che risentiamo spessissimo su questi temi, della segreteria generale della Fiom CGIL, il capo di Fiom Auto. Buongiorno e grazie a te Giorgio Airaudo. Buongiorno a te. Ecco, arriviamo anche a te, dopo aver chiesto però a Massimo Mucchetti, lui come l'ha letta e come la interpreta l'intervista data al Corriere a Raffaella Polato. Ma se dovessi dirla in una battuta, direi troppo bello per essere vero. Ah. In che senso? Nel senso che tutte le persone ragionevoli immaginano che nei paesi ad alto costo del lavoro come l'Italia, meno alto che in Germania, ma molto più alto che in Serbia, piuttosto che la Polonia, per non parlare di altre localizzazioni ancora più favorevoli da questo punto di vista alle imprese, nei paesi ad alto costo del lavoro, dicevo, la produzione manifatturiera può esistere e prosperare in tanto in quanto include un valore aggiunto altrove impossibile, e dunque nel settore automobilistico, al di là della taglia delle automobili che conta, devono essere automobili che si possono vendere ad alto prezzo. Il premium vuol dire questo, vuol dire che il consumatore è pronto a pagare un quid in più, no, rispetto a macchine in teoria equivalenti, ma lui riconosce in queste che paga di più delle qualità speciali. Ecco, questo è il segreto dei tedeschi in buona sostanza. Esatto. No? Allora, se l'Italia vuole avere un'industria dell'auto, nei suoi limiti, insomma nelle sue proporzioni, diciamo di tipo tedesco, deve fare delle automobili molto belle e percepite come tali dai consumatori. Ora, la Fiat, l'ultima automobile alta di gamma, molto bella, che ha fatto, si chiama Tema e risale, Riccardo Ruggeri ha una memoria storica più precisa della mia, ma a Naso 25 anni fa. Ecco, nell'88. Perfetto, quindi questo vuol dire che ci sono state intere generazioni di tecnici che non hanno più fatto quel lavoro lì. Allora, e idem era alla 164 dell'Alfa Romeo. Ora, non è impossibile riposizionare, come ha spiegato prima Riccardo, una grande azienda come la Fiat, ma è un lavoro enorme, al cui confronto tutto quello che ha detto, ha promesso di fare Marchionne fino all'altro ieri, è niente, sono stupidaggini rispetto a quello che ci dice di voler fare adesso, e ci dice di volerlo fare con due marchi, l'Alfa Romeo e la Maserati, che per ora, per come li abbiamo visti, non hanno nelle mani della Fiat la capacità, le dimensioni, la cultura per diventare quella cosa lì. La Maserati fa poche migliaia di macchine all'anno, guadagnicchia, e stiamo lì. Cioè, non è la Porsche che fa 90-100.000 pezzi all'anno che vende carissimi, ma si chiama Porsche. È un'altra cosa. Cioè, io ricordo che sulla Maserati Luca di Montezemolo anni fa diceva: vorremmo fare una cosa tipo Porsche, farne 20.000 di pezzi, che è tipo Porsche, cioè è 1 a 5, sì, no? Esatto. Ecco. Allora, e tutti dissero: ma caspita, ma come fai? E infatti non è mai successo, sono passati anni da quel progetto e le macchine sono sempre 6-7.000, stiamo parlando di quell'ordine di grandezza lì. Quindi, come si dico, non è che ne dovrei fare 100.000, ma 50.000 le devi fare se vuoi competere e dire che anche tu sei come quello là. Uno. Secondo, Alfa Romeo. Ma se l'Alfa Romeo vuole fare la guerra ai tedeschi nell'alto di gamma, si confronta con un Audi, una BMW, una Mercedes, che largo circa fanno dal 1 a 1.5 milioni di pezzi cada uno. In quel segmento lì, no? E tu ne fai 130.000 tutte nei segmenti bassi, perché oggi l'Alfa Romeo è Mito e Giulietta. Ma di che cosa stiamo parlando? Esatto. Cioè, qui stiamo giocando col destino, la vita delle persone, e dopo anche con i soldi degli azionisti, ma soprattutto col destino e la vita delle persone. Io terrei questa gerarchia. E allora l'altro punto è: se noi finalmente, no? Diciamo, abbiamo capito, avevamo sbagliato tutto prima, bisognerebbe dire anche questo, no? Si chiede sempre alle sinistre di fare la Bad Godesberg e dire ci siamo sbagliati, si chiede sempre al centrodestra di fare la sua Bad Godesberg su Berlusconi e dire ci siamo sbagliati. Beh, caspita, qui c'è una Bad Godesberg enorme che dovrebbe fare il gruppo dirigente Fiat su se stesso. L'ha abbandonato 25 anni fa. Non ieri, no? E adesso ci dice che è il suo domani, e noi siamo felici, però vorremmo che chi ci dice questa cosa qui non ce lo dica con un sorriso e con un'intervista a un giornale. Cioè, ma deve prima cospargersi il capo di sé e dire: io ho sbagliato tutto fino a ieri, adesso ho finalmente capito che dobbiamo fare un'altra cosa, mi rendo conto che qui è come prendere una corazzata e fargli fare un'inversione a U, ci vogliono 100 miglia di mare per fare quella roba qui, quindi ci vuole del tempo. E qui vengo al punto. Per fare tutto questo, oltre alla testa, ci vogliono tempo, e il tempo è denaro. Allora io mi domando: la Fiat li ha i soldi per fare quello che ci promette o non li ha? La Fiat oggi i soldi non ne ha neanche l'ombra di quei soldi lì. Perché? Perché quando ci raccontano del gruppo Fiat Chrysler tutto assieme, non ci dicono le cose esattamente come stanno. Che in teoria ha più di 20 miliardi di liquidità. Ecco, questa qui è una delle grandi frottole che girano, no? Perché intanto il gruppo Fiat Chrysler è a due gambe che sono distinte fra di loro, la Fiat consolida la Chrysler dal punto di vista contabile, ma i quattrini della Chrysler sono della Chrysler, perché la Fiat ha solo il 53%, pardon, il 58%, e negli Stati Uniti, per poter disporre della cassa di un'azienda americana da parte di un'azienda non americana devi avere il 100%, ovvero te la devi o comprare o fondere, no? E poi bisogna andare a vedere bene com'è. Hanno dei vincoli strettissimi da questo punto di vista, tanto è vero che la cassa della Chrysler resta là. La Chrysler sta generando cassa in ragione di circa $1 miliardo all'anno. La Fiat invece la sta bruciando in ragione di 15 milioni al mese, no? Circa, questi sono gli ultimi dati che abbiamo letto, no? La Fiat, settembre su settembre, ha peggiorato il proprio indebitamento finanziario di 3 miliardi, non stiamo parlando di noccioline, di euro, non di dollari. Allora, questo, quindi siamo già al netto dei fatti stagionali, di tutte le storie che si dicono in questo momento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, ma è naturale che sia così, stiamo andando male in Europa e questi sono i prezzi. Ti correggo solo per dire che sono 15 milioni di euro bruciati di cassa al giorno, non al giorno. Penso mi sento, no? È giusto, era un lapsus, giusto, no? Quindi su base annua, diciamo, fino adesso stiamo a 3 miliardi, andando avanti non lo so, ma siccome ci faceva delle previsioni di perdita ancora per il 2013, ce ne saranno altri 3, non resta più niente dopo. Cioè, allora, il problema vero è che io mi preoccuperei di questo punto e su questo punto chiamerei, come dire, a consulto, al capezzale, tutti i medici possibili e immaginabili, perché l'Italia si sta giocando l'industria dell'auto nel momento in cui in Italia l'industria dell'auto significa Fiat e su fornitura e basta, mentre sarebbe sano per un grande paese manifatturiero come è l'Italia e come l'Italia vuole continuare ad essere, avere non un produttore di auto, ma possibilmente due, tre produttori di auto. E su questo anche io sono totalmente d'accordo. Comunque, qui non si tratta, ripeto, di avere atteggiamenti, qui si tratta, dopo X aggiornamenti, riposizionamenti, eccetera, di non ricascarci, cioè l'atteggiamento, come vedete, è di esaminare seriamente, dati alla mano, la cosa. Di fronte a questa annuncio, uno dice fammi capire, però hai il dovere di dire fammi capire, ed è un dovere tanto più oggettivo, giustificato, alla luce dei riposizionamenti e riaggiornamenti e di volta in volta delle polemiche che la stessa Fiat ha assunto nei confronti di chi chiedeva chiarezza, come se si trattasse di lesa maestà, di mettere in discussione numeri assolutamente e sovranamente indicati, di cui nessuno contesta la libertà all'azienda, ma il problema è la credibilità a questo punto, ed è un punto che è stato marcato da molti anni. E ripeto, non c'entra niente, dal mio punto di vista almeno, per diverse opinioni sulle relazioni industriali nell'azienda, quello è un altro capitolo ancora. Qui stiamo parlando innanzitutto della credibilità industriale, di questo tipo di strategia. Diamo l'assalto ai tedeschi, dove i tedeschi sono più forti, hanno successi incredibili, figli di anni e decenni di non aver saltato un solo ciclo di investimenti. Ma io non lo so, io mi gratto e dico ma evidentemente non ho la testa sufficiente per capire. Alcuni ascoltatori dicono: ma come, non vi lamentate sempre? Prima l'attacco era perché chiudeva gli stabilimenti, adesso li lascia aperti e ancora attaccati. Ah, ma se non ci fosse Marchionne non ci sarebbe Fiat, ha fallito. Questo non si discute. Il problema però è capite che prendiamo la lettera, quello che dice, e tentiamo di capirlo. E io chiedo a Giorgio Eraudo della Fion che impressione gli ha fatto, che credibilità dà questa strategia di assalire i tedeschi laddove sono molto più forti. Ma guardi, io penso che la Fiat non stia dicendo tutta la verità, però secondo me la cosa più grave è che gli si consente di non dirla. Io penso che sarebbe giunto il momento che il governo di questo paese nominasse, come si dice, un consulente indipendente, come ha fatto il governo francese di fronte al piano della Peugeot, e si costituisse un'opinione propria nell'interesse del paese. L'industria dell'autoveicolo è troppo importante, resta strategica, a maggior ragione in una fase di crisi, per affidarla a un piano che ogni 2-3 anni cambia, che è più uno show che un piano concreto, che in verità sfrutta pesantemente gli ammortizzatori sociali che ha questo paese e che sono dei lavoratori, perché li pagano i lavoratori ogni mese col prelievo sull'imponibile lordo e li pagano le imprese in virtù dei lavoratori che hanno da mettere in cassa integrazione. Il piano a me sembra un piano assai fantasioso. Per il 2013 ci sono i prodotti che già c'erano, parliamo dell'Alfa C4, delle due Maserati da costruire all'ex Bertone, tutto insieme parliamo, nella migliore ipotesi, di 20-22 mila pezzi non hanno nessun effetto sulla situazione di crisi degli attuali stabilimenti. dal 2014 in poi parliamo di prodotti che sono, come si dice, in gran parte giapponesi, che erano presenti negli altri piani, sono stati posticipati. 2015-2016 secondo me sono più un oroscopo che un vero e proprio piano. Aggiungo una cosa che secondo me in pochi notano, che questa scelta di cambiare l'assetto strategico fa sì che sia scomparsa l'appunto dall'Italia, cioè l'appunto, la nuova appunto, cioè quella che doveva sostituire l'appunto Evo e che è l'altro prodotto su cui la Fiat ha sempre costruito volumi e quindi garantito l'occupazione, e dopo la Panda è un prodotto che è scomparso dai piani, non è rintracciabile nei 17 prodotti che l'altro giorno ha presentato Marchionne. E io temo, come si dice, che sia un prodotto che nel cambio di assetto strategico che Marchionne propone alla Fiat non sia più destinato all'Italia, ma a qualche stabilimento extraeuropeo. Per tutte queste ragioni io penso che bisognerebbe costringere la Fiat a fare un esame di realtà, quindi metterla di fronte ai numeri che anche voi avete snocciolato, metterla di fronte a un interesse del paese che deve essere palesato, non può essere una delega. E anche, permettetevi, so che voi lo considerate un altro capitolo, anche al modello di relazioni sindacali, perché voi non potete non osservare che il modello di relazioni sindacali che il grande piano di Fabbrica Italia aveva proposto era un modello che era funzionale all'attirare qui in Italia, diceva Marchionne, 1.400.000 vetture da produrre. Io ricordo quando ai tavoli Marchionne ci disse: datemi i turni, togliete le pause e io vi porterò qua tutta la produzione possibile ed immaginabile. Noi non credevamo allora, perché francamente ci parevano numeri incredibili, tantomeno ci crediamo adesso. Vi faccio riflettere solo su una cosa, rapidissimamente ho finito. Il taglio delle pause, se uno va sulla produzione dei modelli premium, è assolutamente non necessario, perché decadono da sé, perché per costruire quelle auto lì serve un'organizzazione del lavoro, un ciclo del lavoro assai più disteso, sono operazioni che vanno nell'ordine dei molti minuti, non più operazioni che stanno sotto il minuto o sopra il minuto. Quindi anche il sistema di relazioni è legato al che cosa produci e quanto produci, e quindi non è indifferente, cioè non so come dire, ha anche un sistema di relazioni che non c'entra più nulla con ciò che si propone di produrre. È giusto, mi tocca l'obbligo, come si dice giornalisticamente, di chiedere ad Airaudo come risponde all'obiezione che fa oggi Bonanni, il capo della CISL, dicendo, per commentare la richiesta di Susanna Camusso, segretaria della CGIL, dicendo fermiamoci di fronte a questa cosa dei 19 fuori per i 19 reintegrati. Carlo Benedetti ha detto, sembra una cosa dei tedeschi, uno ogni 10 al muro, ma detto questo Susanna Camusso ha chiesto un passo indietro di tipo interpretativo, cioè ha detto torniamo alla base dell'accordo interconfederale del giugno 2011 che dà le norme per tutti. E Bonanni replica, questa è la solita CGIL FIOM, dove in maggioranza, come a Grugliasco, non voleva l'accordo, poi alla fine l'accordo è venuto e lo applica senza problemi, dove in minoranza dice no agli esiti della maggioranza che non controlla. In che cosa sbaglia l'obiezione Bonanni, Araudo? Secondo me Bonanni conosce davvero poco i dettagli del mondo auto e del mondo Fiat. A Grugliasco lavorano 400 lavoratori su 1.200, hanno fatto la preserie della berlina, mentre la piccola maseratina, quella che dovrebbe secondo i piani fare 40-50.000 vetture, è prevista per inizio dell'estate. Queste sono le voci d'officina, le voci di fabbrica, che poi sono quelle più attendibili. E di questi 400, 100 vengono da Fiori. Francamente non si applica nulla di quell'accordo, perché ovviamente non hanno bisogno di straordinari, non hanno bisogno di turni, e per fare quelle auto lì il problema delle pause non c'è mai stato. Alla ex Bertone facevano 20 minuti di pause perché lavoravano a 9 minuti quando facevano la Opel. Quindi parliamo di cose, ogni tanto non si conosce di che cosa si parla. In riferimento alla cosa che lei diceva, guardi, io penso che il governo avrebbe potuto fare delle cose anche sulla rappresentanza. L'accordo del 28 giugno era sicuramente un terreno su cui si poteva operare anche da un punto di vista legislativo e normativo per risolvere quei problemi intorno all'articolo 19 dello statuto, intorno finalmente a una legge sulla rappresentanza che impedisca, veti e garantisca la possibilità e accordi separati garantiscano la possibilità ai lavoratori di decidere sulle materie su cui possono decidere. Temo però che questo governo, che fa fatica a votare in Parlamento qualunque cosa, faccia fatica a fare un decreto di questo genere, lo dico sinceramente. Mi sembra un'opzione politica che non è più nelle mani di questo governo. Ovviamente si tratterà di capire che cosa intendeva il ministro Fornero quando ha detto alla Fiat in qualche modo fermatevi, riapriamo un dialogo, perché io francamente non l'ho ancora capito. Iniziativa personale ci ha tenuto il ministro Elsa Fornero a dire quando ha annunciato questa cosa. Mucchetti, secondo lei il piano, critiche a quello che abbiamo visto, ha annunciato Marchionne, rispetto al capitolo delle relazioni industriali e lunghissima coda del cambiamento presentato, come ci ha detto Eraudo, e poi non attuato con quegli obiettivi per Fabbrica Italia, sono due piani che bisogna sforzarsi di tenere separati, o sono la stessa cosa? Cioè la stessa cosa delle conseguenze di ciò che si dice è molto diverso rispetto a ciò che si fa poi? Ma guardi, io ho visitato tanti anni fa la Ferrari e ho visto come si lavora la Ferrari, e questo viene un po' a sostenere l'osservazione di Eraudo, che l'organizzazione del lavoro e quindi le relazioni sindacali che diciamo regolano, no, questa organizzazione del lavoro sono molto dipendenti da che cosa si produce e da quanto si produce. La mia impressione è che all'atto pratico, da ormai da anni, in Fiat la questione sindacale sia un diversivo che Marchionne astutamente ha messo in campo per parlare d'altro rispetto alle responsabilità che l'azienda, che è fatta dal management e dall'azionariato di riferimento, ha verso il paese dove da 100 anni è insediata. Questo è il punto. I sindacati si sono divisi, e purtroppo questa è una brutta notizia, e quindi hanno alimentato con la loro divisione il diversivo, e la gente parla di queste cose, anche perché parlare di questi fenomeni è più facile, perché coinvolgono anche il cuore, il sentimento, la pancia delle persone, sono più apparentemente intellegibili che parlare della società che brucia o non brucia cassa. Quello è un tema un po' complicato, un po' più tecnico, no? Ecco. Allora parliamo di ciò che ci viene più facile. Ora, se questo parlare di ciò che ci viene più facile appartiene alle persone, diciamo, che non hanno un interesse specifico, insomma, alle persone normali, va tutto bene. Il dramma è quando di questo diversivo parlano i politici che vogliono parlare della Fiat, parlano gli imprenditori della Confindustria che vogliono discutere di queste cose, cioè quelli, gli addetti agli lavori, gli addetti ai lavori hanno l'obbligo, direi quasi etico, di parlare prima delle cose più importanti e dopo delle cose meno importanti. Con questo io non sto dicendo che la vita delle persone, dei 19 dentro, dei 19 fuori, non sia un argomento fondamentale. Le persone hanno una dignità che viene prima delle macchine, ma il punto qual è? È che per garantire questa dignità noi dobbiamo affrontare e risolvere i problemi che stanno prima, perché altrimenti andremo sempre a rimorchio di un'azienda che da tanti anni ha cessato di fare, di seguire una propria politica imprenditoriale vincente. Questo è il punto. E anche la storia di Marchionne, secondo me, un bel momento, va un po' rimessa, diciamo così, con i piedi per terra, perché esiste un Marchionne che ha ristrutturato la Fiat, è il Marchionne del 2004, del 2005, del 2006, avendo in Italia anche l'aiuto di una rottamazione e quant'altro, avendo l'aiuto degli azionisti, avendo tante cose. Non abbiamo avuto un mago che ha fatto tutto lui da solo, ci sono stati tanti che hanno concorso e lui, da bravissimo, ha tirato le fila di questi diversi contributi e ha ristrutturato la fabbrica. Il problema è che, fatta la ristrutturazione, poi bisogna fare le macchine. Eccoci qua, Disdain come sempre con la voce di Jim Morrison, che ci ricorda insomma che siamo ancora in un canale di sospetto agli occhi dei mercati mondiali. Vediamo come vanno queste elezioni americane, poi torneremo ai nostri problemi europei con l'avvicinamento delle nostre elezioni e la sfiducia che cresce a quel punto di nuovo verso l'instabilità italiana. Ma restiamo ancora sulla vicenda Fiat. La domanda che faccio a Riccardo Ruggeri è quale sia il suo punto di vista su tenerle separati la questione relazioni industriali, piano Fiat e coda del progetto Fabbrica Italia rispetto agli obiettivi industriali, oppure in realtà, come sostiene Airaudo, è un pochino la stessa cosa, perché quelle relazioni industriali erano proprio per obiettivi e tipi di produzione che nella realtà dei fatti non ci sono state o poi sono state promesse, e oggi addirittura se ne indicano altre. Tu che pensi, Riccardo? Ma permettimi solo una piccola annotazione, perché vorrei tornare un attimo sul discorso delle vetture premium. Cioè quel tipo di vetture, non l'abbiamo toccato evidentemente, hanno delle implicazioni enormi sui fornitori. Perché quando fai questo devi avere anche i fornitori che siano idonei, perché i fornitori rappresentano il 70-80% di una macchina, devi avere i fornitori idonei a quel mondo, non è che noi li possediamo immediatamente questi, quindi questo è un aspetto. Per quanto riguarda i 19, io mi permetto di consigliare di tenere veramente separata questa cosa, perché questa cosa troverà una sua soluzione nei famosi tavoli di cui parlano tutti. Il vero problema è l'altro, nella quale io, che ragiono sempre da investitore, quindi parto dal punto di vista che Marchionne dica la verità. E il problema è che bisogna sostanziarla questa verità, perché è qui che si decide veramente le sorti definitive della Fiat. Fino adesso non siamo mai arrivati a questo punto, adesso si decide veramente le sorti della Fiat, e quindi credo che tutti si devono concentrare su questo. Abbiamo, credo, la fortuna di avere un presidente del Consiglio che è stato per 10 anni consigliere della Fiat, per cui sa di che cosa parla. Abbiamo un ministro del lavoro che, respirando l'aria di Torino, sa di cosa parla. Abbiamo un ministro dello sviluppo che, essendo stato azionista di Fiat per 5-6 anni, sa di che cosa parla. Io credo che ci sia veramente bisogno di metterci tutti per capire bene se questo piano di riposizionamento strategico è fattibile o meno, perché le domande sono sempre le stesse quando si fa un piano di riposizionamento strategico. È credibile? È fattibile? È risolutivo? Ecco, noi dobbiamo rispondere a queste tre. E noi per il momento abbiamo sollevato più che altro interrogativi rispettosi, ma numeri alla mano non capiamo. C'è poi Riccardo che sostiene che, proprio essere stato per tanti anni consigliere indipendente Fiat da parte di Monti, gli levi invece che attribuirgli una particolare, come devo dire, decisa efficacia di analisi su queste cose, perché in effetti lui esorde dicendo la Fiat è libera di fare quello che vuole, che non si discute dal mio punto di vista, ma altro conto è non capire quello che ci dice, o non tentare di capirlo, come chiede chi dice ogni volta convochiamoli, facciamo chiarezza. Naturalmente noi non viviamo in un mondo in cui è possibile l'Italia fare quello che ha fatto per l'ennesima volta la Francia prende 7 miliardi e li mette in PSA, per essere chiari, da noi non si può. Però resta il fatto che c'è un enorme punto interrogativo proprio sulla credibilità e la perseguibilità di questo piano di posizionamento. Sentiamo come la pensa Federico da Bologna. Prego, Federico. Sì, buongiorno. Sì. Salve, io le volevo chiedere questo: siccome probabilmente a livello politico ci sarà un'instabilità che porterà probabilmente ancora un Presidente del Consiglio tecnico, che potrà essere Monti, sì. Allora, risalendo a quello che ha detto Marchionne, riferendosi al Brasile, che il Brasile ha aiutato la Fiat, quindi a livello statale, sì. E ci potrebbe essere una connessione in questo senso, cioè che abbia anche sponsorizzato Monti, Marchionne. Allora ci può essere questo scenario che si andrà a creare, cioè Presidente del Consiglio tecnico, un governissimo tra destra e sinistra, un Presidente della Repubblica a sua volta probabilmente un tecnico. Federico, la devo fermare perché no, qui non stiamo parlando di fantapolitica, qui stiamo parlando di capire il piano e di vedere che sviluppi avrà poi quello delle relazioni industriali. Io ringrazio Massimo Mucchetti, Riccardo Ruggeri e Giorgio Airaudo, e l'appuntamento è a domani. Yeah.